Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fugico. Oggi siamo qui con Antonio Lamberti del duo Bucolico, che suonerà al Mercato Sonato sabato 4 marzo. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Siete passati per Bologna l'anno scorso al Dumbo, il giorno dopo l'uscita di Via col Vento. Com'è tornare a Bologna? Quanto vi manca esibirvi qui? Insomma, raccontaci un po' che avete fatto da quella volta. Allora, Bologna per noi è una città fondamentale. Dopo la Romagna, forse la prima città che ti ha considerato come musicisti, come cantautori, come scrittori di canzoni, come fautori di spettacoli assurdi. Non è facile convincere il pubblico a digerire quello che facciamo, no? È molto particolare. Mm-hmm. Quindi direi che Bologna è stata la piazza fondamentale da cui poi è partito tutto il nostro lavoro, quello vero, quello che stiamo facendo adesso. Da quella volta in poi abbiamo fatto 70 di concerti, quindi direi che ci è andata bene. Abbiamo girato tutta Italia, siamo tornati in Sicilia, finalmente, ci mancava quanto Bologna, un'altra regione come Bologna molto fondamentale. È andata molto bene, adesso siamo in procinto di scrivere cose nuove e nel frattempo porteremo a Bologna la nostra voglia di ricominciare, perché siamo fermi da 2 mesi abbondanti, quindi abbiamo un grande entusiasmo. Quindi il mood sarà alto? Sì, il mood è sempre alto. Sempre altissimo. Nonostante l'età cerco sempre di dare tutto e Daniele mi segue alla grande. Viviamo di live. Insomma, la nostra concezione della musica, che adesso non è più così scontato, è quello di andare a suonare dal vivo davanti alle persone. Molti adesso non considerano questo lavoro un'altra cosa, però per noi continua ad essere questa cosa qua. Il nostro manager dice che è una sorta di sindrome delle orchestre di Liscio, no? Dalle quali noi anche involontariamente veniamo in qualche maniera, no? Perché la nostra tradizione nasce da lì, quindi quando crei un gruppo, una situazione o comunque hai qualcosa da dire, la prima cosa che fai, compri un furgone e ci metti la scritta, poi dopo quello che viene si vedrà, insomma. La nostra idea è sempre stata questa. E com'è fare musica così ironica e provocante in questo periodo in cui qualsiasi cosa fa polemica? Vi preoccupate mai che la vostra musica diventi troppo? Ma sì, questa è un'ottima domanda, perché io ho visto quello che ad esempio ha fatto Rosa Chemical al Festival di Sanremo, che è una briciola delle torture che faccio io a pubblico quando mi esibisco dal vivo, quindi sconvolgersi per una roba del genere era veramente assurdo. Sembra che ultimamente ci siamo dimenticati che sono stati gli anni 70, ci siamo dimenticati che ci sono stati gli Schiantos, ci siamo dimenticati che c'era Iannacci. Sembra che ci sia un po' un impasse su sta cosa, che si sia imborghesita un po' la questione. Fanno passare in maniera drammatica delle cose che in realtà sono semplicemente gioco, che è quello che fa vivere la musica, che fa vivere lo spettacolo, no? Qualsiasi tipo di spettacolo è in un certo senso gioco, anche quello più drammatico, secondo me. Quindi cioè, la nostra visione è molto seria di quello che facciamo. Mm-hmm. Cioè, poi non abbiamo assolutamente paura di pubblicare o di fare cose dal vivo, perché non sono assolutamente pericolose per nessuno, anzi, secondo me fanno bene. E alla luce di questo, pensi che vi verrà mai voglia di diventare mainstream? Cioè, diventare più commerciali, mainstream, magari? No, commerciali no, nel senso brutto parola no, cioè, che per noi è brutto, poi magari per qualcuno non lo è, quindi cioè, se uno nasce per fare quel tipo di musica lì, ci sguazza dentro, ci sta alla grande, quindi non è assolutamente una cosa negativa per tutti. Se il nostro modo a un certo punto colpisce non solo magari una parte di persone come adesso, ma comincia ad andare di moda a più persone, quindi la popolarità cresce, a noi ci fa altro che piacere. Sicuramente noi non modelliamo quello che facciamo seguendo il mercato, quello di sicuro no, scriviamo quello che ci pare, perché per scelta ci siamo tenuti questa grande libertà che fa un gran bene, no? Mm-hmm. Sguazziamo con i nostri pupazzi, diciamo cose che apparentemente non vogliono dire niente, quando in realtà poi ci è stato comunicato e lo fanno anche dal vivo, queste cose poi alla fine colpiscono e il significato poi sotto si legge, insomma. Quindi il nostro pubblico è così, sono persone che vedono oltre. Mm-hmm. e colgono i significati nascosti, quindi è un buon pubblico, diciamo, dai. Speriamo che sia sempre di più questo. L'ultima domanda che ti faccio è riguardo alla nuova musica che state preparando, puoi dirci qualcosa o è tutto top secret? Ma guarda, noi siamo sempre martoriati nella nostra stanzetta, perché le canzoni ci stravolgono la vita, nel senso che ogni volta che affrontiamo un percorso nuovo lo viviamo proprio in maniera leggera, però anche molto molto seria, quindi molto drammatica, quindi ogni canzone è super impegnativa, ma cioè ci impegna le giornate, quando ci lasciamo poi la sera rimuginiamo su quello che abbiamo scritto, torniamo, scriviamo un'altra versione perché quella non va bene, siamo capaci di stare su una parola anche una mattina intera, capito? Quindi è un lavoro molto bello quello che facciamo io e Daniele insieme, perché scriviamo le canzoni insieme. È un lavoro un po' esauriti, perché cioè, uno alla fine dice boh, ma cioè, chi me lo fa fare, oppure dice boh, perché devo stare ore e ore su un foglio bianco e cercare di riempirlo. In realtà questo processo qui poi porta a tutta la bellezza di andare in giro, e quando ti sei sudato una canzone in quella maniera, alla fine dal vivo la canti con una passione travolgente, no? Quindi è quello che ci fa divertire. Un nuovo disco che probabilmente uscirà, diciamo, i primi del prossimo anno, adesso stiamo preparando, intanto ci dedichiamo alla prossima primavera-estate, poi insomma vediamo quando può uscire. Diciamo che è molto concentrato sul corpo, in certo senso, no? La scoperta del corpo, tu in qualche modo lo devi assemblare, lo devi capire, lo devi conoscere per poi portarti fuori come persona, no? Il corpo è un po' sparito, diciamo, no? Siamo diventati tutti cerebrali, siamo diventati tutti solo occhi per guardare gli schermi, capito? Quindi parla anche molto di questa cosa qui. Una sorta di disco che diventa quasi materia, capito? Ci piacerebbe riuscire a dare questo messaggio. Poi magari, ma no, anzi di sicuro non ci riusciremo, come sempre. Dai, speriamo di sì, insomma, ve lo auguro. Bene, allora grazie mille e invitiamo gli ascoltatori di Radio Città Fujiko a partecipare, a comprare i biglietti questo sabato 4 marzo al Mercato Sonato. Molto bene, vi aspettiamo tutti numerosi, grazie a voi della radio che siete sempre molto gentili e ci intervistate in maniera intelligente. Grazie mille. A voi, grazie.